Melog. Il piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Nello specifico io posso raccontare quello che è accaduto a me, ma è accaduto anche ad altre donne, perché io mentre assistevo allo scempio della mia immagine, assistevo anche allo scempio di quella di altre donne. Arrivava il profilo rigorosamente falso di turno, pubblicava storie degradanti con foto collegate, quindi un bell'album di almeno una dozzina di fotografie della donna, in questo caso ero io, e con indirizzi, nomi, la storia dove si va a denigrare la persona. Nel mio specifico ha raccontato delle storie fuori dalla grazia di Dio sui miei presunti rapporti non si sa come né con chi. La vita di tre ragazze sintetizzata in questa breve introduzione sonora. La prima, una ragazza che ha amato un ragazzo, ha avuto una storia, ha avuto un amore, ha avuto una passione, insomma, ha passato una porzione della sua esistenza emotiva condividendola con quella di un'altra persona. Poi la storia è finita, perché è giovane, perché le storie finiscono, perché gli amori eterni fanno parte della letteratura, non sono più una cifra plausibile per la nostra contemporaneità, in cui tutto si sovrappone, tutto cambia, tutto incessantemente muta. Lui, come accade spesso oggi nella gioventù con genitori bimbo minchia, non accetta il fatto che una donna si rifiuti di continuare a frequentarlo. E cosa fa? Mette in atto la sua vendetta, cosa molto frequente, molto usuale. Di momenti di intimità passati assieme, oggi è molto facile che soprattutto nelle giovani generazioni rimangano testimonianze iconografiche. Ci si ama, ci si filma mentre ci si ama, ci si manda foto intime come pegno d'amore. Una volta si mandavano petali di rosa, si mandavano poesie, ciocche di capelli. Oggi si mandano foto della passera o del pisello, perché naturalmente quella è una sorta di suggello del fatto che l'intimità comunque è condivisa. Si può condividere a distanza. Questa ragazza probabilmente ha fatto qualcosa di simile. Se le vuole fare una colpa, è figlia della sua generazione, del suo tempo. L'intimità oggi è anche questo. E avere una dimensione epica del proprio momento amoroso e passionale. Il ragazzo ha mantenuto comunque in memoria del suo smartphone questi momenti condivisi all'apice della passione. Questi momenti in realtà andrebbero cancellati, restituiti, come le nostre nonne restituivano i pacchi delle lettere d'amore chiuse con un fiocchetto e profumate. Finiva l'amore, finivano tutte le tracce condivise dell'amore. E cosa fa questo ragazzo? Fa quello che oggi usualmente, comunemente fanno molti ragazzi, non la maggioranza. Apre un gruppo chiuso su Facebook, anche sembra un controsenso, cioè entra in un gruppo chiuso, cioè un gruppo in cui le persone si divertono a scambiarsi foto personali, anche foto scattate al mare. Una ragazza sta al mare, prende il sole, ha un costume succinto, qualcuno le fotografa al posteriore e immediatamente la mette in questi gruppi. Cominciano naturalmente, l'ho visto poi pochi giorni fa, i commenti: cosa gli farei, la sfonderei, la ammazzerei, la spaccherei. La vita emotiva di questa ragazza è completamente distrutta, perché naturalmente, improvvisamente, migliaia di persone che lei non conosce diventano partecipi dei suoi momenti di intimità. L'intimità, quando è condivisa fra due persone, è una cosa bellissima, è una cosa che suscita profonde emozioni. Quando l'intimità è sbattuta in faccia, come se fosse un frammento di YouPorn, naturalmente perde tutto il senso, ma perde anche il senso la vita di questa ragazza, che ha avuto la vita distrutta dalla pochezza, l'incapacità e l'inclinazione delinquenziale di alcuni uomini di usare e approfittare della sua debolezza, debolezza data da un momento amoroso, per farne scempio. L'altro episodio, altre ragazze, sono due ragazze che nella Repubblica Ceca si divertivano, andando in automobile a 120 all'ora, a farsi un video in diretta mentre guidavano. Erano allegre, carine, divertenti, anche loro facevano qualcosa che in realtà era ispirato al principio della condivisione di momenti epici. Noi condividiamo momenti epici, che sono i momenti della sessualità, dell'amore, della passione, condividiamo momenti epici, che sono i momenti dell'eroismo. Queste ragazze sentivano eroiche nel guidare in maniera sconsiderata facendosi un filmato. Queste ragazze si sono schiantate, una è morta e l'altra è in terapia intensiva. 800240024, cosa ne pensate di questa nuova dimensione del vivere, del morire, dell'appassionarsi, dell'amare? Io dico che da molti anni frequento questo ambiente, che all'inizio sembrava qualcosa di estremamente promettente, qualcosa che doveva darci la dimensione di un mondo nuovo che si affacciava nella nostra stanca civilizzazione abituata a considerare soltanto ciò che sentiamo con le nostre mani, con i nostri piedi, con il nostro olfatto, con i nostri occhi, e invece è diventato questo, è diventato un mondo del tutto improbabile. L'idea è quella di mettere all'agonia questa donna, perché poi tutti gli utenti, ai tempi in cui c'ero io erano centinaia, 100.000 persone, tutti gli utenti vengono poi invitati a contattare la donna in questione, ovvero io, e a molestarla, a chiedere rapporti sessuali, a ingiuriarla, a fare shitstorm, si chiama il termine proprio tecnico e specifico di questo tipo di attività, ovvero quando centinaia di persone vengono a chiederti l'amicizia, inviano messaggi, inviano fotografie loro. Immediata è la reazione del pubblico attraverso l'SMS, che paradossalmente il sistema è più scoperto, più identificabile per lanciare un messaggio. Mi scrive un cretino: il solo ruolo della donna è essere sollazzo dell'uomo. Già lo disse una vecchia al buon Zarathustra, ma lo scriveva Nietzsche in un secolo in cui si diceva che Dio fosse morto. Oggi Dio sembra essere risorto attraverso tante altre maniere. Questa frase, che in sé non ha nessun portato tragico, filosofico, è semplicemente l'essenza della stupidità di un essere umano, di cui ho il numero di telefono, potrei chiamarlo immediatamente, portarlo a rispondere della sua frase completamente fuori del tempo. Selvaggia Lucarelli, buongiorno. Buongiorno, ciao Gianluca, buongiorno. Allora, Selvaggia Lucarelli è una donna che sta sulle palle a un'infinità di uomini per una serie di ragioni, e moltissime anche donne per altrettante ragioni. Probabilmente la prima ragione è che è una donna avvenente, una donna che non si nasconde per la sua avvenenza, poi è una donna che esprime i suoi pensieri in maniera molto diretta, una donna che ha una visione pubblica, una faccia pubblica, partecipa a programmi televisivi molto pop, si prende a capelli con personaggi molto noti, questo a molti piace, questo a molti fa rabbia. È una donna che scrive libri, ha appena scritto un bel romanzo, 10 piccoli infami per Rizzoli, parla di alcuni suoi amori non sempre felici, ma oggi Selvaggia Lucarelli è per un'altra parte della sua vita che la chiamo. Sul finire dell'estate, penso che lei fosse in viaggio in India o qualcosa del genere, ha messo un post che mi ha molto colpito, in cui diceva che si è sentita veramente sola in un'altra fase della sua vita, che è quella della rivelatrice di questo mondo oscuro di cui facciamo finta che non appartenga a noi, non appartenga ai nostri figli, alle nostre realtà, che appunto è questa dimensione limacciosa e mortifera che proprio galleggia attraverso i social. Sintetizza, Selvaggia, cosa avevi scritto in quel post. Io dicevo che questa battaglia contro l'odio in rete, l'odio che tu racconti tanto bene da molto tempo, è una battaglia che sto conducendo poi nella sostanza da sola. Ci sei tu, c'è adesso da un po' di tempo Enrico Mentana che in qualche modo sta parlando dell'argomento, c'è la Boldrini, anche se la Boldrini sta personalizzando molto questa battaglia, mentre io la vivo in un altro modo, perché ho tante segnalazioni, sento storie, quindi per me non è diventata una battaglia che conduco per me stessa, ma per tante ragazze, come quella che hai intervistato tu, di cui sentivo adesso alcune parole. E quindi dicevo che mi pareva bizzarro che l'unica a sentire l'esigenza, no, di combattere questo odio in rete fossi io, anche perché non sono l'unica che lo subisce. Anzi, direi che anche tante mie colleghe, io parlo naturalmente di persone che hanno visibilità, che quindi potrebbero fare qualcosa di concreto con più rapidità e più efficacia rispetto magari alla sconosciuta, ecco, mi stupisce il fatto che nessun personaggio noto facciano tutti finta di nulla, diciamo. Sì, facciano tutti finta di nulla. Io devo dire che, insomma, leggo su bacheche di, non so, cito personaggi pop, Belen, D'Urso, Caterina Balivo, no, te ne potrei fare, non lo so, centinaia di esempi di donne note che sono tempestate di insulti e che però non hanno mai speso mezza parola sull'argomento. Quindi normalmente si tengono gli insulti nelle loro bacheche, nei loro luoghi e fanno finta di nulla. Ecco, a te cosa succede? Fammi un esempio. Qual è il più tipico insulto che ti viene? Perché anche, fra l'altro c'è stata un'escalation da quando cominci a occuparti di queste cose. Non sei solo la bella donna che va in televisione, che prende in giro i personaggi pubblici, che parla liberamente delle sue storie, dei suoi amori. Sei anche quella che va a rompere le scatole nel sancta sanctorum del machismo più esasperato. Sì. Guarda, la faccenda più inquietante non è tanto la qualità dell'insulto, il contenuto, è l'organizzazione, è un po' quello di cui parlava la... Sì, che poi gli insulti sono sempre gli stessi, quelli che leggevi scritti nei cessi dell'autogrill, sono esatto, quelli. Ecco. Non sono neppure così creativi, capisci? Di fronte all'insulto creativo, alle volte, come dire, cioè uno minchino. Farebbe anche un elogio se qualcuno avesse qualcosa di nuovo, sono sempre le stesse cose. Sì. No, ma gli insulti tradiscono sempre un po' il pensiero sessista e macista, no? Si dicono sempre, ma tu pensa a parlare di gossip, cioè tendono sempre a volerti relegare. Vabbè, quello è il tuo lavoro, Selvaggia. Se tu facevi la sarta, cucivi le gonne, fai il personaggio che va ospite in televisione, si occupa di costume e parli di gossip, ma non credo che sia la tua vita. Non sono esattamente Alfonso Signorini, però va bene. Oppure... Sì, vabbè, ma comunque se anche fossi non ci vedrei nulla di strano, scusa, è un lavoro. Sì, però chiaramente il sottotesto è un altro, no? Cioè basta che tu dica il tuo pensiero, non so, su qualsiasi cosa, non sia appunto il culo di Belen o l'ultima pettinatura di Ilaria Blasi, e immediatamente tu vieni rimessa al tuo posto in quanto donna, cioè tu non puoi avere un pensiero più ampio, più profondo su altre cose, no, tu devi parlare di quello. Ma questo, vabbè, è il minore dei problemi. Il problema vero è quello che diceva la ragazza che ha intervistato, è l'organizzazione, è l'aggregazione, cioè prima lo scemo, il vigliacco, il violento, eccetera, era a volte una persona isolata, cioè io mi ricordo lo scemo del paese, quello un po' strano, quello era una persona isolata. Ora queste persone hanno la facoltà e la possibilità di aggregarsi in una maniera che non è mai accaduta nella storia dell'umanità, perché adesso hanno l'opportunità di creare gruppi, di incontrarsi. Ecco, la differenza, Selvaggio, mi sembra di capire che rispetto all'insulto isolato, allo spostato che ti chiama e ti vomita addosso rabbia, io mi sono iscritto giorni fa su Sarà per vedere che cosa è una cosa ridicola, dei poverini che alla fine non sanno che dire, ti dicono sempre le stesse cose, confessa che sei finocchio, queste cose tipiche, vabbè, le solite cose, che però non c'è il gusto, vedo che non c'è il gusto dell'affronto, perché alla fine ti mandano un messaggio che leggi solo te e lo puoi cancellare. Certo. Quando ci si aggruppa si comincia a scendere dal piano ipotetico, surreale, virtuale, al piano concreto, si comincia a fare del male concretamente alle persone. Certo, certo, si prende coraggio, no? Ci si sente spalleggiati, c'è il famoso fenomeno del bomberismo, quello di cui parlavi pochi minuti fa. Ecco, dammi dei numeri, secondo te una foto intima che una persona si scambia in un momento di passione, che fa parte comunque delle contemporanee ritualità amorose, messa dentro uno di questi gruppi, quanta gente se la può condividere? Milioni di persone, perché comunque queste cose diventano virali a livello internazionale. Le ragazze che sono finite nella famosa Bibbia, questo file, mega file di foto condivise di ragazze inconsapevoli spesso di essere lì dentro, ha fatto il giro del mondo. Non è certo qualcosa che è rimasta qui in Italia. Ahimè, purtroppo il linguaggio della crudeltà, della stupidità, eccetera, e anche della pornografia è universale, purtroppo. Tu hai postato ieri una foto che hai preso in un gruppo, c'è una ragazza che prende il sole, si vede a un bel sedere, fotografato da vicino. Un ragazzo dice: quella bisognerebbe sfondargli la schiena, ammazzarla, spezzargli le costole e poi prenderla finché è ancora calda. Tu hai rintracciato questo ragazzo e hai detto: ma cosa scrivi? Cosa ti ha risposto? Mi ha risposto: fatti i fatti tuoi. E io gli ho detto: ma ti piacerebbe se succedesse a tua sorella, a tua madre? Cioè, lui mi ha detto: ah, mia sorella e mia madre si farebbero grasse risate, perché al contrario tuo hanno il senso dell'ironia. Capisci? Di fronte a una frase del genere tu cosa puoi replicare? Cioè, per loro questa è ironia. Anche perché non è che parli con Hannibal Lecter, parli con un ragazzo e poi a vedere il suo profilo Facebook metti i gattini, i cagnolini, le foto con la fidanzatina, con i fratellini. È una persona, fra virgolette, normalissima. È insospettabile. facile. Guarda, l'altra sera ne ho beccato uno su Telegram, che è un altro canale che ora va per la maggiore perché garantisce di più l'anonimato di Facebook, che chiedeva i file appunto della Bibbia, delle minorenni, eccetera. Un infermiere che lavora in un ospedale vicino Milano, con volontario della Croce Rossa, eccetera, eccetera. Io gli ho scritto: ma tu sei consapevole del fatto che stai chiedendo video di ragazze minorenni che sono state schiaffate su questi siti, su questi gruppi, in maniera del tutto inconsapevole, eccetera? E lui: ah vabbè, ho fatto una cavolata. Cioè, per loro è uno starnuto, niente più che uno starnuto nell'universo, cioè non si sentono di fare qualcosa. Questo alcuni, altri invece sono perfettamente consapevoli del male che fanno ed hanno proprio una cattiveria. È un animo delinquenziale vero e proprio, così va chiamato. Sì, gli amministratori di questi gruppi sanno perfettamente, tanto più che, insomma, andando a scavare un po' nelle loro vite, guarda caso non sono tutti stinchi di santi, ma insomma sono pregiudicati, persone che hanno preso 4-6 anni per violenza, per aggressioni, eccetera. Quindi guarda caso ora non sono proprio tutti. Beh, tu hai mai avuto il sospetto selvaggio che dietro ci fosse anche un business? Perché è un pregiudicato, certo. Uno che comunque ha una forma di abitudine a procurarsi a vivere in maniera delinquenziale. Naturalmente. Che sì, apre un gruppo del genere, secondo me c'è anche un suo profitto, a parte del suo divertimento personale. Beh, naturalmente c'è un profitto. Considera che quando ho fatto chiudere Sesso, Droga e Pastorizia la prima volta, e mi è arrivato immediatamente un messaggio dal fidanzato di una nota showgirl che collabora con questi gruppi da sempre, e mi ha scritto: tu mi hai fatto saltare un accordo commerciale con la chiusura di questo gruppo, e quindi io adesso pubblicherò degli screenshot del tuo fidanzato che dimostrano che è uno che spalleggiava questi gruppi, cioè, capito, con un affare ricattatorio. Io penso però al passo successivo: una volta ci siamo detti, abbiamo eliminato la componente emotiva dello scandalizzarsi, dire dove siamo finiti. Sì. Questa è l'umanità. Oggi abbiamo dei sistemi, degli indicatori più precisi, vedere esattamente di cosa siamo fatti noi. Non mi sento io assolto, nessuno è innocente in questo, ognuno ha la sua piccola parte. Il passo successivo è vedere proprio l'aspetto legato all'attività criminale. Non sarebbe interessante, al di là la Boldrini comincerà a denunciare, tu cosa farai su un piano proprio concreto, legislativo, con questo materiale che hai in mano? Tu hai scoperto che stanno girando le foto delle gambe tagliate del delitto che è avvenuto a Roma, a Piazza Euclide, qualche settimana fa. Giravano tranquillamente, come se fosse un gadget come gli altri. E cosa comincerai a fare? Ma io continuo in realtà a fare quello che facevo prima, segnalare alle autorità laddove ci sia coinvolgimento di minorenni, e l'ho fatto. Sono andata io in polizia postale, ho mostrato dei video che condivideva un ragazzo siciliano, eccetera. Poi non so ovviamente come cosa è successo, ma l'ho fatto. Alle aziende comunico cosa fanno i loro dipendenti, perché per me è una cosa fondamentale capire che agire in questo modo talvolta può farti anche perdere il lavoro, perché parliamo anche di cose un po' spicce, Gianluca. Certo. Cioè, al di là della dignità, della figuraccia, eccetera, cioè talvolta ci sono delle conseguenze anche sulla propria sopravvivenza, io direi. Ti faccio un esempio banale: quando è uscito il mio libro, ovviamente prima di essere nelle librerie era in una stamperia, è stato stampato, nessuno l'aveva ancora visto, io non l'avevo visto, non l'aveva visto neanche la casa editrice in forma cartacea. Qualcuno, un ragazzo che lavorava in questa stamperia famosissima dove stampano tutti i libri più noti, ha fatto le foto alle pile di libri pronti per essere distribuiti, ha fatto le foto, l'ha messo su questo gruppo chiuso con Sesso, Droga, era Sesso, Droga e Pastorizia, che ora non esiste più, grazie a Dio, l'hanno rifondato da poco. Come si chiama adesso? Adesso si chiama, no, è sempre Pastorizia Never Dies, credo, il gruppo chiuso, non so se l'hanno riaperto, comunque ci provano a riaprirlo continuamente, ma ora Facebook è diventato molto più rigido. E quindi, insomma, ha pubblicato la foto delle pile del mio libro con la mia faccia, perché era in retro, e ha scritto: devo lavorare tutti i giorni con la faccia di questa puttana davanti, cosa faccio, cosa mi consigliate di fare? Sotto tutta una serie di, ovviamente, proposte, immagina, sì, certo, cosa potete fare con il mio libro, giustamente, e dopodiché chiaro. A un certo punto qualcuno dice: dai fuoco alla fabbrica. Lui scrive: quasi quasi do fuoco alla fabbrica. Ora ovviamente poi l'hanno licenziato. Non l'avrebbe mai fatto. Fatto sta che io chiaramente ho chiamato subito la stamperia, ho detto chi era il ragazzo, chi era il dipendente, ho mostrato quello che aveva pubblicato, eccetera, eccetera. Il ragazzo è stato licenziato in tronco, cioè dopo 5 minuti era già fuori. È giusto che le persone si prendano la responsabilità dei loro fatti, anche perché di queste cose si parla soltanto quando c'è il mediatore culturale che scrive la stronzata immensa sullo stupro e diventa un fatto nazionale, diventa un esempio emblematico. Ce ne sono migliaia, centinaia di migliaia di esempi simili di persone che non hanno nemmeno lo stigma infame di appartenere a etnie che vengono da lontano, ma sono i bei pargoloni che ci accarezziamo tutti i giorni nelle nostre case. Ci fermiamo un istante. Ciao Selvaggio. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. Melog, il piacere del dubbio. Vivevo con una persona, con il mio ragazzo, ero fidanzata, l'ho lasciato, ha iniziato a creare profili a mio nome con mie foto personali, dopo avermi già minacciato che avrebbe fatto, poi l'ha fatto davvero, ha iniziato a creare dei profili a mio nome, poi altri profili falsi, a pubblicare mie foto, in parte ero a conoscenza dell'esistenza di certe foto, altre foto invece non sapevo nemmeno che me le avesse fatte, le ho scoperte nel momento in cui le ho viste sul web. Ha iniziato a contattare chiunque potesse conoscermi. Non pago di questo, ha scoperto i gruppi Facebook. Denigrare la propria ex fidanzata raccontando storie false, pubblicando foto. 800 24 0024. Oggi cerchiamo di capire una deriva dell'umanità, deriva percepibile, deriva non più limitata a un'elite di persone che conoscono i segreti del navigare in rete. Oggi la rete non ha più segreti, non serve più avere delle formule di sapienza per conoscere la rete, basta comprarsi uno smartphone, si è ovunque, si è vicino a tutti e si ha la possibilità di comunicare a tutti tutto quello che si vuole. In questo la natura umana, che sappiamo quanto profondamente fallace, quanto profondamente piena di imperfezioni, debolezze e incapacità di controllarle, si dimostra veramente per quello che è. Uno degli aspetti che viene fuori in maniera, ahimè, ormai inequivocabile è la capacità di non controllare più gli aspetti più bassi della propria personalità. Uomini che non sono più capaci a essere uomini nel vero senso della parola, quindi a controllare le proprie emozioni, i propri rancori, la propria capacità di elaborare anche una sconfitta amorosa. E poi succede questo. Sto parlando con Selvaggio Lucarelli, che da qualche tempo sta attivamente operando proprio nei luoghi in cui maggiormente si verifica questo fenomeno, che sono i gruppi chiusi su Facebook, in cui le persone hanno come loro passatempo la condivisione e naturalmente il dileggio, la diffusione dei momenti intimi, l'insulto di persone che malauguratamente hanno lasciato qualche traccia alla loro vita intima, persone che pensavano di amare. Selvaggia Lucarelli, torniamo un attimo velocemente, perché so che tu dopo hai un impegno, a quello che ha fatto la Presidente Boldrini. La Presidente Boldrini ha fatto un gesto eclatante, a un certo punto ha pubblicato quello che scrivono di lei, è la prima volta nella storia della Repubblica che si leggono apprezzamenti così nei giornali rivolti a una così alta carica dello Stato. Ha detto comincerà a denunciare. C'è stato qualcuno che anche ha detto ma se deve aspettare con quello che ha fatto, con quello che dice, con quello che è. Può anche essere antipaticissima la Boldrini, ma giustifica il fatto che una persona sia antipatica, ammesso che non svolga bene il suo compito, sono cose che non mi riguardano in questo momento, possa doversi beccare per forza qualcosa di quelle terribili letture personali che abbiamo visto? Ma direi proprio di no. Direi che comunque la diffamazione resta pur sempre un reato. Ecco, se fossimo tutti liberi di dire quello che ci salta in testa, non esisterebbe neanche. Però non trovi, Selvaggio, scusa, ti voglio portare. Sì. Che al di là, diciamo, il primo girone, quello infernale, è quello che sta dentro i gruppi, che sono gli infami, quelli nascosti, quelli che andrebbero tirati fuori per la collottola e passati a norma di legge, esista quasi una limacciosa, quasi cameratesca, quasi divertita, quasi assolutoria, congrega maschile che in fondo queste cose, non dico che le giustifica, perché figuriamoci, nessuno si prende la complicità di un reato o l'accettazione di un reato, ma in fondo che volete che sia? E questo volete che sia, secondo me, la parte più pericolosa. Certo, perché cioè, si sottovaluta ancora molto il fenomeno, ma la ragione è il fatto che si pensa che la realtà virtuale non sia realtà. Cioè, semplicemente questa è un'ignoranza digitale totale. Certo, questo è secondo me il primo passaggio fondamentale, è che si comprenda questo, che non esiste una realtà parallela, non esiste una zona franca e non esiste uno scollamento tra realtà e mondo virtuale inteso come social network. Oramai siamo quello, la nostra siamo vita quello, è quello. Naturalmente siamo quello. Il bar è Facebook, non c'è alcun scollamento tra le due cose. Se io dico puttana al bar, ha lo stesso peso, lo stesso identico peso che il dire puttana sulla mia bacheca, sulla tua bacheca Facebook. Però sulla tua, diciamo, onorabilità, rispettabilità, integrità, dirlo in un gruppo significa che questa attribuzione, che poi corrisponde a un comportamento, a un pregiudizio, viene moltiplicata per milioni di persone. Tra l'altro, infatti, se vogliamo parlare di conseguenze emotive sulla la vittima, diciamo così, di questi insulti, anzi, io direi che il virtuale, come dici tu, amplifica molto, no, l'effetto. Ci sono molti spettatori, più o meno silenziosi, oppure partecipi di quegli insulti, eccetera. Per cui, anzi, io direi quasi che dirlo tant'è che ci sono state delle sentenze che parlano addirittura di aggravante riguardo Facebook. Cioè, direi che io, per esempio, alle volte mi sento aggredita di più che se mi succedesse al bar, perché sulla mia bacheca Facebook ci sono milioni di persone che commentano tutti i giorni e quel puttana è letto da milioni di persone. Per cui, insomma, è chiaro, no, che mi sento aggredita in maniera più... Mi dici un'ultima cosa, Selvaggio, poi mi interessa. Il battage giornalistico c'è stato in Italia nel mese, sì, di agosto, nei confronti di Sarà, dicendo partirà, sì, un nuovo strumento di cyberbullismo. Poi abbiamo visto che era una cosa, faccia ridere per quanto era stupida. Sì. Ecco, come giustifichi? I nostri colleghi non ci stanno in questo mondo, si limitano a mandarsi tweet e rimbalzarseli fra di loro per sentirsi grandi fighi? Ma pochissimi sono attenti a quello che succede, si sottovaluta tantissimo il fenomeno, talvolta si confonde la battaglia con la persona che conduce la battaglia, quindi mi sta sulle palle la Boldrini, per cui anche se ha ragione io ragione non gliela do, e lo stesso vale per me, mi sta sulle palle la Lucarelli e quindi sì, vabbè, ha ragione, però sai che c'è, siccome la battaglia la conduce lei, io una mano non gliela do. E quindi bisognerebbe trovare, ahimè, lo dico con mestizia, uno o più testimonial che magari riescano a smuovere le masse, anche se, ti dico la verità, io credo che prima o poi arriveremo ad una battaglia più compatta, forse ancora presto, si intravede qualcosa, un po' di luce in fondo al tunnel, ma secondo me prima o poi ci si arriverà, e purtroppo, mi dispiace dirlo, ci si arriverà attraverso dei traumi. Credo che se ci fosse oggi un po' di consapevolezza ci potremmo risparmiare le Tiziana Cantone, no? Sì, Tiziana Cantone, ricordiamo, una ragazza poi alla fine si è suicidata, no? Riuscendo più a gestire il bailam che le era accaduto intorno per una questione del genere. Secondo me, se vuoi sapere come la penso, secondo me accadrà qualcosa di più grosso prima o poi, per questo sottovalutare generale della faccenda, e si interverrà in maniera più seria e più efficace. Come sempre, qualcosa di grosso che riguarderà qualche potente. Sì, infatti, perché qualcosa di grosso tra le persone non hanno il privilegio della grande visibilità, sta accadendo, accade tutti i giorni, abbiamo le cronache piene di ragazzi e ragazze in fondo fortemente colpiti e molti anche vittime di questo sistema. Grazie Selvaggio, sentiamo Giorgia. Giorgia, buongiorno. Buongiorno. Sei la prima che ascolto, perché ci tenevo a mettere degli elementi concreti, però tu hai una proposta concreta. Sì, io almeno posso dare forse un consiglio a chi ascolta, limita poco il danno magari, però se una decide di mandare, o anche un ragazzo decide di mandare delle foto sue di nudo, personali, atteggiamenti, diciamo, così, ci può mettere sopra quello che si chiama il watermark, cioè una sovraimpressione. Tu sei del mestiere che sai queste cose, diciamo, ti occupi di questo. Sì, però oggi come oggi non è che ci vogliono delle grandi competenze grafiche, perché secondo me esistono dei softwareini dentro i cellulari che te lo fanno automaticamente, quindi basta saper scrivere. Cioè, tu metti un livello trasparente sulla foto in cui, esatto, c'è impresso il nome della persona a cui lo mandi. Tu ci metti il nome del destinatario, così se questo qua lo fa girare, ok, la foto è in giro, però almeno tu sai chi l'ha fatta girare. Come le foto fatte, diciamo, dai fotografi che per il copyright, esatto, scrivono sopra che è la loro. Esatto. Ecco. Esatto, così. E si può fare anche con i video, e perlomeno è un'arma a doppio taglio. Beh, da Giorgio ci viene comunque nelle discussioni che facciamo sui massimi sistemi una proposta pratica. Ci vorrebbe qualcuno inventasse o segnalasse l'app che istantaneamente mette il watermark sulle foto, quindi quando mandi una foto alla tua fidanzata o al tuo fidanzato di un momento intimo e lo vuoi condividere solo con lui, rimane impresso che a lui l'hai dato, a lei l'hai dato. Se questa comincerà a circolare, solo da lui può essere uscita. 800 24 00 24, ripigliamo tra un istante. 57esimo Salone Nautico, dal 21 al 26 settembre a Genova, vi presenta Melog, il piacere del dubbio. Meglio da solo e male accompagnato, Questa è una bella musica in sottofondo, una musica, immagino, di origine nordafricana. Il guidatore di questa automobile, una macchina sportiva, un Alfa Romeo, una bella macchina, è tutto felice, accompagna coi gesti la musica, con il suo telefono si sta inquadrando, inquadra la strada, sta piovendo, il tergicristallo dimostra che dovrebbe essere prudente, inquadra il tachimetro per vedere quanto va veloce, inquadra addirittura lo specchietto retrovisore dove c'è il deodorante dentro la boccettina, quello che si vende ai distributori di benzina, è tutto felice, contento, sta condividendo in una diretta Facebook la sua corsa in automobile, la fa vedere agli amici, è felice, a un certo punto la pubblica, poi probabilmente va anche a vedere quanti like gli sono arrivati, sennò che gusto c'è mostrare un momento epico così forte. Però ahimè, perde il controllo della macchina, si schianta contro un pilone di cemento e muore. Questo è un altro esempio di quello che può accadere quando si equivoca quello che viene immaginato come un mondo virtuale, lontano, che non tocca la nostra vita. Quando l'esaltazione della propria personalità, la necessità di avere comunque una figura forte, dominante, condivisa, che piaccia agli altri, che sembra così facile quando si mette la nostra foto su Facebook. Io ho messo su Instagram all'inizio della trasmissione una mia foto al microfono, banalissima, una frase idiotissima, chi mi ama mi segue, tutti dietro a mettere, ah che bello, ti seguiamo, ti ascoltiamo, ecco, questo ti fa sentire chissà chi, ma non sei nessuno, sei semplicemente un essere umano, come da sempre esistono sulla Terra, che ha in mano una sorta di moltiplicatore della sua esistenza. Di questo si può fare molti danni alle altre persone e anche molti danni a se stessi. Mauro, buongiorno. Nicoletti, buongiorno. Io forse sono magari un po' fuori tema, ma ho acceso la radio proprio mentre parlavate della signora Boldrini, mentre la signora Lucarelli faceva l'esempio. E l'affascina per questo discorso, che se ne parla tanto da giorni e giorni, non è un po' noioso? Ma comunque sì, l'ascolto. Non è che mi affascina, facevo una considerazione che era quella, proprio perché la rete non è estranea a noi, ma ormai permea a tutto, tutti i vari, le varie app. Il fatto di utilizzarla per delle esternazioni deve comunque tenere presente la signora Boldrini, che poi queste esternazioni, se propugnano idee o comunque, data la posizione, il ruolo che occupa, portano a delle conseguenze o comunque a dei fatti che possono essere ricondotti a ciò che lei dice, è ovvio che si debba far carico anche delle eventuali critiche. Al netto sì, però scusi, uno può non essere d'accordo con la politica della, quello che vuole, non mi interessa, non mi affascia nemmeno parlarne, ma scusi, io ho visto un fotomontaggio in cui c'è la Boldrini a quattro zampe con un africano dietro che la sta violentando, e gli augurano, le sembra giusto questo tipo di reazione? Infatti le sto dicendo, al netto di quello che cede il normale senso comune. Qual è il netto che vuol dire? Questo no, ma magari glielo mette in mano sì. Qual è la cosa che allora, nel momento in cui io propugno che l'immigrazione deve essere libera, sono tutti ben accetti. Lei dice non sono d'accordo. Non sono d'accordo io. Dico, nel momento in cui qualcuno non è d'accordo e ricollega quest'idea al fatto che quattro disgraziati, che poi siano in questo caso nordafricani piuttosto che italiani. Certo, una fantasia. Sta parlando da una settimana di sta roba di quattro violenza. È ovvio che una persona normalissima come può succedere al bar, dica: caspita, se questa ha questa idea di accoglienza e poi ci troviamo questo genere di persone che fa che combina questi disastri, dice una cosa sbagliata, una persona civile dice una cosa sbagliata e dice non hai ragione, diciamo al bar, ma non dice vorrei mandarteli a casa, ho letto le tue risorse, portatele a casa, così ti violentano a te. Lei che è un dissacratore sa benissimo che quando succede che un giudice lascia qualcuno in libertà e poi questo qualcuno uccide il figlio o il marito, la considerazione più leggera che lei sente al bar o dal verduriere è che questo giudice dovrebbe essere il padre, il marito, il fidanzato della persona a cui è successo. Sì, ma nella logica delle cose, io voglio pensare, Mauro, quella è una persona che ragiona, voglio solo farla capire. Io non sono un buonista, sono sempre stato considerato uno dei peggiori stronzi che parlano ai microfoni della radio. Poi, naturalmente, gli allievi superano i maestri, mi sta bene. Però tutto questo non può essere espresso in maniera diversa, anche più cattiva, anche più lesiva nei confronti di chi accetta un dibattito, una dialettica, piuttosto che dire ti farei sfondare da quattro negri. Cioè, mi sembra talmente vecchio, banale, arcaico, antico, inefficace. Scusi, è proprio quello. Ma guardi che non c'è nulla di nuovo sotto il sole. Quello che prima succedeva in quattro mura all'osteria, adesso sì, ma in quattro mura dell'osteria quattro mura all'osteria rimaneva quattro avvinazzati, oggi gira su milioni di persone. Questo però cambia la percezione rispetto alla gravità del fatto. Chi vede queste cose dice: ma allora tutto si può dire, tutto è lecito, tutto può essere augurato. Guardi, io non sono assolutamente, non credo l'umanità sia buona e non penso che occorra per forza essere politicamente corretti, ma trovo che sia abnorme pensare che tutto questo sia la normalità. Manuel, sentiamo Manuel. Buongiorno, sì. Sono Manuel. Veloce, c'hai un minuto. E volevo dire, a me hanno tirato giù tutta la galleria da Facebook, dove c'avevo le foto personali con la mia ragazza, avevo le foto della mia nipotina, che aveva 2 anni all'epoca. E te l'hanno messa in rete? E l'hanno messa tutte quante in rete. Allora, Manuel, siccome è una storia bella, questa storia ce la racconterai, ti incontrerò sul treno, me la racconterai sul treno. Questa è la prova che accade anche agli uomini, non pensate siano solo le donne colpite da questo fatto. Accade a tutti e forse non dovrebbe più accadere. Alla prossima.